Letture di Radio 24. Mentre continua il presidio del Teatro Valle da parte di un gruppo di attori che si oppongono alla sua chiusura, un altro locale romano viene occupato per impedirne la trasformazione in centro polifunzionale. È l'ex Cinema Palazzo, chiuso da anni e da qualche giorno occupato da Inno Global. Durante la conferenza indetta dalla società acquirente per denunciare la violazione della proprietà, irrompe Sabina Guzzanti in difesa degli abusivi. Dopo aver occupato l'ex Cinema Palazzo, gli esponenti di Action hanno tentato l'esproprio proletario anche della conferenza stampa convocata lunedì scorso dal portavoce del PDL, Daniele Capezzone, per raccontare la violazione della proprietà privata da noi denunciata qualche giorno fa. È finita a spintoni, con i poliziotti ad arginare la furia di Sabina Guzzanti, di alcuni esponenti dei centri sociali e anche di due anziane donne di San Lorenzo identificate dalle forze dell'ordine, e con Capezzone a dare alla Guzzanti della comunista milionaria che difende le occupazioni illegali. Teatro della Gazzarra, l'Hotel Nazionale, proprio di fronte a Montecitorio. Qui Capezzone, il deputato del PDL Francesco Aracri, che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione parlamentare, portavoce e avvocati della società Camena, hanno convocato i giornalisti per raccontare gli sviluppi della vicenda dell'ex Cinema Teatro Palazzo in piazza dei Sanniti. Riepiloghiamo i fatti. Si tratta di un immobile di 1500 metri quadri, sfitto da 5 anni e in precedenza sala biliardo e sala bingo per 2 decenni, preso in affitto dalla Camena SPA alla cifra di 15.000 euro al mese, per farne una sala polifunzionale con bar, maxischermo, attività culturali e alcune macchine per il gioco d'azzardo, autorizzate dal Ministero delle Finanze e dall'AMS. Il 15 aprile, quando i lavori di ristrutturazione del locale si avviavano a conclusione, attivisti di Action, la centrale capitolina delle occupazioni di immobili, si presentano nel cantiere e se ne impossessano, cacciando con modi non proprio urbani gli operai. Il tutto perché i residenti di San Lorenzo non vorrebbero un casinò nel rione. La Camena SPA sporge denuncia, ma non riesce ad avere giustizia. Anzi, il PM Maria Anna Cordova archivia il procedimento penale a carico del consigliere comunale Andrea Alzetta e di Simona Panzino, due degli occupanti, con la bizzarra motivazione che si è trattato di una introduzione momentanea tendente a esprimere il dissenso della destinazione dell'ex cinema a sala giochi e non già a occuparlo. Alla faccia dell'introduzione momentanea, gli occupanti sono ancora là, organizzano affollati spettacoli e vendono senza licenze cibo e alcolici in un ambiente pieno di amianto, con un pericoloso montacarichi che troneggia ancora al centro della sala e naturalmente in barba alle più elementari norme di sicurezza, ciò che fa dell'ex palazzo un'autentica bomba a orologeria. Nella vicenda è parte in causa anche l'attrice Sabina Guzzanti, che non si è limitata a sostenere l'occupazione sul suo blog, ma di fatto è diventata l'animatrice di molte serate e lunedì si è presentata all'Hotel Nazionale a difendere il suo teatro abusivo, lanciando oscure accuse contro la Camena SPA e contro chi, come Capezzone, difende in essa lo Stato di diritto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Cuomo, Teatro occupato a Roma. È rissa Capezzone Guzzanti, dal Giornale del 5 luglio. Letture di Radio 24. I 4 giovani arrestati domenica scorsa durante l'assedio al cantiere Notav avevano tutti alle spalle un elevato numero di denunce per episodi analoghi. Speravo non fosse arrivata a questo livello di idiozia, racconta il padre di una di loro. Non pensavo che mia figlia fosse così idiota. Questa frase è una bandiera bianca nel cielo italiano. Non solo la resa incondizionata di un padre di fronte al suo fallimento, è proprio la fine di ogni possibile speranza di comprensione. Del resto, se avessi capito perché Marta si è ridotta in quel modo, forse avrei fatto in tempo ad evitare certe cose, ma sinceramente lo ignoro. Il padre di Marta Bifani, una delle 4 persone arrestate per la guerriglia di Chiomonte, è un professore di lettere in pensione. Abita a Fidenza in un condominio anni 70. Inganna il tempo scrivendo poesie. Alle 3 di pomeriggio, 24 ore dopo i fatti, risponde al telefono come da un altro pianeta. L'hanno arrestata? Mi scusi, è uno scherzo? Non ho visto niente, questa mattina non sono sceso a comprare i giornali. Mi spieghi bene, sono un po' frastornato. Ma cosa devo fare? Ha un numero del carcere? Qual è il reato? Pazzesco! La storia di sua figlia Marta, partita dalla provincia benestante di Parma e finita sulle barricate Notav in Val di Susa, la racconta senza enfasi. Faceva l'impiegata, aveva una vita normale. Poi, si sa, succedono cose imponderabili. Qualcuno viene folgorato sulla via di Damasco, Marta invece è stata oscurata sulla via di Bologna. Ha conosciuto un ragazzo di un centro sociale. È diventata prima vegetariana, poi vegana. Poi ha iniziato a fare campagne contro le pellicce. Animalista convinta. Sì, ogni tanto ci vediamo, ma non sapevo che fosse in questa situazione. Intendo dire, speravo non fosse arrivata a questo livello di idiozia. E poi ad aprile è mancata sua madre. Cavolo, non si può spiegare. Per fortuna spesso si sono spiegati da soli, i quattro arrestati, e sono voci che arrivano da un altro secolo. Un ritorno sulla scena, si potrebbe dire. Tutto tranne che una sorpresa. Gianluca Ferrari, Marta Bifani, Roberto Nadalini e Salvatore Soru hanno molto in comune. Oltre al fatto di essere stati fermati domenica pomeriggio con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per esempio, il considerevole numero di denunce accumulate per altre guerre contro gli sbirri. 30, 10, 8, 13. Nessuno era nei boschi per caso, ma neppure erano lì per un'affinità elettiva con la battaglia contro il treno veloce. Prendi il veneto Gianluca Ferrari, 32 anni. Arriva dall'area dei disobbedienti, dalla galassia delle ex tute bianche di Luca Casarini. Frequenta il centro sociale Rivolta di Marghera. Le ultime tre denunce, in ordine cronologico, possono rendere l'idea. 24 dicembre 2010. Interruzione di pubblico servizio durante una manifestazione contro l'arrivo di Berlusconi a Venezia. 9 agosto 2010. Violazione di sigilli e invasione di terreno durante un corteo contro il sindaco leghista di Treviso. 2 settembre 2009. Tafferugli durante una manifestazione contro la Biennale. Sono quattro trasversali della protesta. Per dire, Roberto Nadalini, 31 anni, era già stato in carcere e dal carcere aveva scritto una lettera. Sono detenuto per aver cercato di impedire, insieme ad alcuni compagni, una festa del gruppo fascista Forza Nuova organizzata a Bologna il giorno 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana. In quell'occasione il nostro corteo è stato caricato dagli sbirri e si è difeso come meglio poteva. Poi, dopo uno sterminato ragionamento, il fascismo rappresenta non tanto un'ideologia definita, quanto una delle forme che assume lo Stato capitalista nella fase imperialista. E conclude, contro il sistema che ci uccide, ci affama e ci reprime, morte al fascismo. Lui, Soru e Marta Bifani arrivano dal giro bolognese. L'area è quella anarco-insurrezionalista. Il riferimento è il centro sociale Fuori Luogo. Il gruppo, nato in una stamperia clandestina, è già al centro di un'inchiesta che ha portato all'accusa di associazione a delinquere. Il 25 maggio il giudice del riesame ha usato parole semplici. Una struttura delinquenziale che otteneva i suoi interessi sempre mediante il ricorso alla forza, diretta contro le persone o le cose. L'esordio sono dei volantini contro Marco Biagi, il gius lavorista ucciso dalle Brigate Rosse. In un documento scrivono: ci sentiamo a nostro agio in questo luogo, dove affilare le armi e affinare la critica. Cose che non possono essere separate, le armi e la critica, i bastoni e i cappucci. Mille modi per sabotare il mondo, come libro di riferimento. Anche Marta Bifani era già stata perquisita nell'ambito di questa indagine. La figlia del professore, l'impiegata di Fidenza, l'animalista convinta, è finita con quelli che lanciavano le pietre. Ad altri livelli delinquenziali, se uno avesse interrogato per i medesimi motivi i genitori di Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao e simili, non avrebbero saputo quali spiegazioni addurre. Quindi la mia risposta sul perché, dice il professor Bifani, è questa. Vatte la pesca. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Nicolò Zancan, Marta, ex impiegata sulle barricate, il padre, ditemi dove ho sbagliato, dalla Stampa del 5 luglio.